Parla Ipazia. Voglio rammentarvi quello che la nostra cultura ha acquisito sulla musica e poi farvi partecipi delle nostre attuali ricerche e delle nostre convinzioni. Voglio parlarvi della voce. La voce può percorrere lo spazio con un movimento continuo, in modo da non fermarsi in nessun punto, secondo l'impressione dell'udito, ovvero senza interruzione sino al silenzio. Mentre nel movimento discontinuo essa si ferma su un grado o altezza e poi su un altro, saltando gli spazi intermedi ai gradi. Il movimento continuo è il parlare, mentre il discontinuo, ove la voce sembra che si fermi in qualche punto e poi salti uno spazio, è il canto. Dobbiamo poi definire la tensione o elevazione come il movimento della voce dal grave all'acuto e l'allentamento o abbassamento dall'acuto al grave. Acutezza e gravità sono i risultati rispettivamente della tensione e dell'allentamento. Tendere e allentare costituiscono l'azione con cui lo strumento o la voce umana pervengono all'acutezza e alla gravità. E il grado o l'altezza è l'immobilità della voce, sia che essa si fermi sul grave o sull'acuto. E la massima estensione della voce è limitata sia nel senso del grave che dell'acuto. Quello che la voce non può produrre e quello che l'udito non può giudicare determinano i limiti invalicabili, ovvero le altezze minime e massime. E noi, giovani ma ambiziose e ambiziosi, filosofe e filosofi della città di Alessandria, vogliamo trarre origine dalle vibrazioni per sviluppare con la nostra scienza una teoria che ci permetta di osservare con gli occhi della ragione quello che ai nostri occhi fisici non è visibile, la trasmissione del suono attraverso lo spazio che separa i corpi. Possiamo dire che sonoro è il corpo capace di muovere una massa d'aria che si stenda ininterrottamente sino all'organo dell'udito. Quest'ultimo si trova nell'area esterna e codesta, spostandosi, dà impulso all'aria interna dell'organo, aria che è abitualmente in stato di quiete, in modo da percepire esattamente le differenze di movimento. Sono le vibrazioni o onde che viaggiano e non l'aria o l'acqua o i solidi a mezzo dei quali esse si trasmettono. Se produciamo un suono con uno strumento o con la voce, gli elementi di aria più vicini si spostano in avanti, aumentando la pressione, facendo muovere gli elementi d'aria adiacenti e così via. Dopo che si sono spostate, le particelle ritornano indietro, creando una depressione, mentre l'onda sonora così generata continua il suo movimento in avanti. L'altezza o grado del suono dipende dalle distanze tra due massimi o minimi di densità dell'aria. Tanto più piccola è la distanza, tanto maggiore è l'acutezza, e allo stesso modo avviene il moto del suono tramite l'acqua o i corpi solidi. Oltre a tale teoria ondulatoria si contrappone l'antica teoria corpuscolare, secondo cui ogni fonte che emette voce, musica o rumore produce un flusso di particelle di composizione omogenea che conservano le caratteristiche del suono e permettono la percezione uditiva. E quindi non l'aria che è modificata o pressata dal suono, ossia onde che si propagano, bensì un respiro di elementi primordiali o semi. La luce, visibile o invisibile, si propaga in modo discreto sotto forma di pacchetti di onde. Quindi è possibile supporre lo stesso comportamento per il suono emesso in quanti acustici. Nella nostra esperienza i segnali sonori dipendono sia dal tempo che dall'altezza o frequenza. L'udito più raffinato permette di discernere suoni in cui il prodotto della banda di frequenze o spettro per la durata non sia inferiore ad 1. Esiste un livello di indeterminazione che l'orecchio umano, così com'è conformato attualmente, non può superare. Il suono può quindi essere scomposto in quanti di informazione sonora di queste dimensioni, ossia elementi logici da cui partire per rappresentare una data forma di onda in un dato periodo temporale. In generale, tanto più breve è la durata del segnale, tanto più grande è l'estensione dello spettro e quindi maggiore l'incertezza sulla frequenza. Per Viceversa, la frequenza è ben definita se il segnale è mantenuto a lungo. Supponiamo di utilizzare uno strumento meccanico e non lo strumento vocale. Tentiamo di toccare un punto e portarlo all'assurdo. Suoniamo una nota sola in mille modi, piano, forte, con mille e mille ritmi diversi, e non passiamo ad altre note sino a che tutte le vibrazioni di quella nota siano esaurite. E così via. Finché l'artista non entri in una dimensione di contatto ed evochi dal profondo quello che è il senso della musica. Portare quello che noi siamo, le percezioni, i sentimenti, il nostro stesso corpo al parossismo. Vuol dire invocare, ossia chiamare altre parti e non da qualcosa che noi conosciamo, perché vengono dall'occulto, da una situazione molto alta. L'essere umano è posto di fronte a se stesso, a se stessa. Entra nella scena cosmica e abbiamo il non suono. L'artista fa parte dello strumento e usa il proprio corpo, i colori, i profumi, il movimento in una creazione plastica dove lo spazio include le forme e le forme determinano un volume di spazio. Quindi musica, pittura, scultura e teatro non più distinguibili in un'arte nuova, totale. E l'artista non è quello che trasmette se stessa o se stesso. Le sue emozioni, i suoi momenti, bensì colei o colui che è un mezzo, che riceve e trasmette immagini, che riceve e trasmette suoni. E l'artista non è una categoria a sé. Ogni essere umano può essere artista in tutto quello che fa, quando lavora, quando suona, quando canta, nella scuola, quando fa ricerca scientifica, nei suoi affetti familiari. L'artista è la donna o l'uomo che sa vivere profondamente attraverso scelte continue, una religiosità vera e propria alla ricerca di qualcosa di più alto dello strumento usato per trasmettere. Una religiosa, un religioso della parola, della scrittura, della musica, della pittura, della scienza. In definitiva, essere quello che noi siamo e che abbiamo dimenticato. Come in una storia di un tempo lontano. Quando una musicista o musicista con il sovrumano lavoro a servizio della sua arte, con la sua terribile concentrazione interiore, accetterà il supremo sacrificio, la sordità, per avvicinarsi al divino e per diffondere il divino tra gli esseri umani. Ella, egli, perverrà all'oggettività della musica, in quanto questa esiste di per sé, non in quanto composta da esseri umani. E che l'artista impersonale deve semplicemente trascrivere.